sei fare ali, da quella bagaccia mamma tua. Telefono al 243364, questo è il numero 2, capito, brutto coglione, che tua madre è una grande bagassa, hai capito, coglione? Siamo a buia. Dai, lascia. Che domani mattina già mi diverto io a svegliare la bagassa della madre. Tu è il 243364, capito, porco. Froscio, e poi c'hai il numero di Marcolino. Oh, ho visto, a mezzanotte e mezza, nessuno si può più parlare.